Ah, t'es maman. T'es où là, du coup, à peu près? Ok, ouais, ça passe bien, ça va. Le poulet est à ta traîne de cuire. On fait quoi avec? Il y a des poivrons au congèle? Pensa un poco. Oh, ya. Noi andiamo sempre bene, mai male. Quando andiamo male, vuol dire che la cucchiaia è seria. Sì, dai, dai, ma ti tengo più bene. E calava. Certo, che adesso ti sento più forte. Ehi, quanta occupa ce l'hai la radio? Adesso occupa ce l'ho. Adesso va bene. Tu mi sei avvicinato. Ma non hai fatto la cagarismo, zio. No, sono andato a pulire la vecchi. Beh, forza a forza di rari. Io ti credo. Ma si deve vedere che vinta in dove. Hai visto? Cazzo. E tu la mettendo di cazzo. Allora sei contento. E allora ti fa di pure male. Insomma, un po' caretto mi ha fatto male. Perché mi ha toccato le timpani da una parte e dall'altra. Quelli sono pericolosi, Quelli sono pericolosi. Cazzo, a toccare i timpani, cazzo. A me la vita c'è come su cosa si fissa, cazzo. Fa quattro la mente chi sta cazzo. Per carità, dopo mi sono mandato il burro, sa che mi ha fatto l'ispezione. Mi sono mandato 200 minuti a burro, a faccia di canao, cazzo. Allora, questo 5 minuti e mi ha aspirato tutte e due orecchie. Cazzo. L'importante è che sia legge perfetta adesso, quella è la cosa più importante. Poi, per il resto tutto va bene, dai. Infatti, per il resto va bene. È fatto per puro, mi. Poi mi ha fatto male. Da andare. No, quel punto è un punto delicato. I timpani sono delle cose molto delicate. Basta toccare poco a poco, fanno male. Però, cazzo, è come si fa? Cioè, a non fare niente, cazzo, qualche volta tocca perché è un punto stretto, capito? E non è che... Cazzo, allora già c'aveva la mano ferma quello lì. Non sai, no. Quando è entrato ha cominciato a aspirare, gli dogoso, tirava, sì. Prima gli è riuscito a cavarmi il nero, l'ho dato. Anche dall'altra parte c'avevo il tappo. Però sentivo bene, sentivo. E mi ha aspirato tutti e due, fatti. Quando vai per l'orecchio ti controllano anche l'altra, capito? Non è che ti controllano solo una, no? Le controllano tutte e due, capito? E per cui è giusto che sia così. Fanno tutti così, capito? Almeno adesso non ti lamenti che lo senti. Oh, adesso ci sento bene, eh? Certo. È forte pure ci sento. Così che basta fare la voce bassa, ti sento ugualmente, così è. Adesso Dio che intendo più forte. Caro Grivia, caro Chero, è forza, che c'è? Il cerume è maledetto, Il cerume è maledetto, cazzo. E poi a caldo è peggio ancora, va più in fondo, capito? Se va più in fondo. Bisogna, ma è tutto... fiocco, perché il cotton fiocco spinge dentro. Deve avere un piccolo aspiratore anche per toglierlo. Ecco. Cazzo, allora bisogna comprarsi lo aspiratore. Cazzo, lo sgonfiatore di gomme, chi bisogna pigliare? Io il compressore anche l'ho. Bisogna comprare uno aspiratore per gonfiare i camerali, chi si tu? Ah, io non ci fa nulla. Ci vogliono quelli leggeri leggeri. La batteria che aspiri un po' e che aspira un po' di cerume. Ecco cos'è. Otto. Ne ho tirato due. Se io non fanno niente, sto. Fini mi tira. Salvo che va ben migliorato adesso. Io ho preso due, tre anni fa, per carità, non fa niente, nulla. Cazzo, mi so, ma di chi di cazzo che non sei? Non sei veramente. Non ho un aspiratore del buono di bocca. Ma per la roba leggera la fa benissimo. Non dobbiamo andare a fondo, devono aspirare nella parte leggera. Quello che ho io non va bene, insomma. Me l'avevo ordinato parecchi anni fa e per cui ho provato. No, non riesce a togliere niente, nulla, nulla, nulla. Cazzo, forse ce ne sarà qualcun altro più buono, ma conteranno, però magari sarà utile, ecco. Io quando pulisco le orecchie, con farmaciuffo sto, io uso il farmaciuffo, oppure con questo fiocco quando lo bagno in modo che non lasci i peluci dentro, capito? A me Marco devo non usare il cotton fiocco, devo usare un piccolo aspiratore con il beccuccio lungo, mi ha detto. Dove li trovi questo aspiratore così? In farmacia? No, in internet si trovano, con il beccuccio lungo sono. Costano quasi 30 euro. Quanto? 29,99 costano. Perché non sono dritto. Ma chiamano Pussu. Troppi pagamenti mi sono in giro. Così molto. Se è buono, che aspira già va bene. Vale la pena spendere 39 euro. No, 30 euro. 29,99 costa. A provare a prenderlo a vedere. Se ci riesco lo prendo al prossimo mese, poi ti dico se funziona o no. Allora fai così, quando l'ho preso mi fai vedere se aspira, allora me lo compro anch'io. Che cosa, per le orecchie è così. Tocca a fare così, tocca a fare. Va bene, è chiaro che vale la pena, Lotto. Allora vale la pena. Oppure magari se non ti ordino i due, già ti do i soldi io, so. Ma prima ne prendo uno, allora provo. Se funziona, andrà bene, allora si può ordinare un altro. Se non funziona, sai come ti sei lampato di là. E allora facciamo così, allora. Aspettiamo quando l'ho preso tu, allora. Così che intanto gira in piena l'orecchio. Infatti, adesso ce li ho liberi, quindi quando sarà, piano piano mi arrangio un occhio sul vivaggio. Eia, d'accordo, allora, so. Rimaniamo così, allora. E vediamo un po' se riesce a scavare in due, scavare da sola. Ma che macello è? Vabbè, se aspira va bene, cazzo, se no è inutile a prendere i soldi, ma quello che ho io non serve, ci va una batteria, ci va una batteria da 1,5 per quelle stilo. No, così no. Quello là è un affare lungo, cioè il beccuccio lungo, cioè. E più c'è la sondina anche, e vede nel telefono, lo vedi. Quello che c'è non serve, non va bene. E beccuccio ci sono tre o quattro, ma non va bene, no? È da rampati. Cazzo, di quattro euro mi ha fatto pagare, però me ne aveva dato due. Ma non vanno bene. Uno vi raggi cortigiano molto agio, uno vi raggi ancora, ma sa che dici di quello qui su burro. No, questo è... c'è il beccuccio lungo e più c'è anche la sondina, c'è. Ce lo vede nel telefono. No, così è. Ma, vediamo un po', ce l'ha. Allora, vedi un po' dopo. Tu provalo e lo dice, se funziona lo prendo anch'io, va. Facciamo così allora. Quando lo prendo te lo dico se funziona o no. E chi è questo? Allora senti sto questo. Ehi, attenzione Sardegna, siete che mi apro di più. Avanti, c'è che chiama la Sardegna. Avanti. Siamo dalla Sardegna, Sassari, che ti ascolta. E ok, Brindisi, ben ascoltato. Qua siamo nel nord Sardegna, Sassari. Se ci senti, se ti ascolti. No, a me invece è difficile ascoltarti perché a volte ti ascolto forte e a volte te ne vai. No, è molto brillante la radio. Da un picco di 9 te ne scendi a 1. Ok, anche a te. 73-51 anche da noi. Ok, sono in compagnia di Gio Maria. Avanti Gio Maria. Lo sento, però non riesco a capire cosa dice perché c'è molto quel rebeto, non ho capito chi è, comunque lo saluto se riesce a copiare anche a me. Con la buonasera, Gio Maria da Sassari, vicino all'amicatore. Vedo un po' se mi senti, vai, non lo sento sto, Quello l'ho ascoltato adesso. Sentito mia? Deve essere, però non lo... era quasi a zero. Aveva il mezzo a correre a me, però c'ho molto correre per cui non riesco a capirlo bene. No, lo capisci bene, riprendi tutto. Io lo saluto, si mi ascolta, non so se mi ascolta, ecco, tutto lì. No, Gio Maria, ha chiuso, era di Brindisi era, ci ho dato 73-51, a risentirci alle prossime. A 3.80, e so che era di Brindisi, quello io l'ho capito, ma poi non sono riuscito più a capirlo. Sentivo che parlava però non riusciva a capire ciò che diceva, capito? Infatti. Ma già andava. Lo abbiamo salutato, quindi già va benissimo. Se lo va bene, è lo stesso. Ok. Andava qua. Ma qualcuno l'aveva inteso. No, lo sentivo, però non capivo cosa diceva, capito ciò. Lo sentivo in mezzo al QRM. E il QRM impasticciava la radio, capito? Sì. A me mi dice che mi ascoltava forte, radio segnale 9, e radio 5 dice che era. Cazzo. Io sono andato 4 volte, per cui di meno pure sotto. Per cui anche troppo quello che sto facendo. Non aumento, no, se mi sembra buono così, io ho pazienza. Non aumento per niente, mi sta bene così. Ma infatti anche a me sta bene così, e la voglia. Se ci voglio sentire ci sento, se no pazienza. Sto finiti i collegamenti, se mai, a stare ore da una nazione all'altra per le 10. Lui gattolini ha di Cristo gatta. Boh. Ah no, va solo. Che collegamento così. La saluta e boh. Mazza. E infatti adesso queste stelle non se ne usa più, Certo. Ormai sono finiti quei tempi. Prima ne ha parecchiare la fatica, ma non ne ha più. Becco? Andiamo a vedere. Becco? Si è registrato. Così è, sta salutando e arrivederci. Chi è che vuole entrare a fare? Ciao Gio Maria, ciao Squalo, Marco da questa parte, volevo chiedere se sta andando bene questo baracchinetto che era un paio di mesi fermo. Buonasera Marco, ben entrato. Io ti sento bene, perfetto. Sei saltato l'over Radio 5, per cui tu come lo senti Marco? Con le orecchie lo sento, abbastanza bene. Quindi la radio è pulita, dai, mi interessava quello. Va bene, riprendete pure, buon proseguimento di serata, allora lo tengo in servizio, dai. Sì, Marco, ci risentiamo. Andare. Ciao Marco, ci sentiamo. Ciao Stoni, ciao. Hai compreso Giovanni, lei così. Cazzo, io riunione facevo oggi su un tanta lì, femmine, qui mi ha piacere sì. Cazzo, mi ha piacere tanta cosa qua e là, cazzo, sto qua a 0-4 volte. Ancora, sto che vorrà fare ha intaricato la leva, la borsa ci volavo dentro. E poi capire, mi sto qua a 2 riunione, cazzo. Ma com'è io, da Gonti, dai che mi sono parato alla Sabassi. Anche mi sono preparato alla Lido vicino a Torres, ho già sotto una macchina anch'io e mi erano in burro duccata e sono sceso a via Vagine per la Passamondetta e mi hanno dato i fugli. Anche noi abbiamo fatto il diretto prima. Siamo andati in piazza di Segni, che abbiamo preso un Coppa d'Europa. Dopo siamo andati alla Ive, alla Torre, cioè a Lille, a Lille, a staccata alla Torre. Abbiamo preso un po' di roba lì e poi ce ne siamo usciti, capito? Che abbiamo fatto un bel diretto oggi. Anch'io ero lì, alla Lido. Sono entrato, ho fatto appena di spesa. E poi ho sbagliato e me ne sono andato a casa. E così gli ho fatto tutto. Sono a tre fogli della Passamondetta e la ci ho pagata oggi. Faccio, non si metta più. E noi siamo la gente della Russia, va, di campagna. Tata. A quella di casa l'avevamo già pagata, adesso c'è quella di campagna, ancora arrivi. Sì, arrivi. Ti arriverà. Non si chiede. Allora, casa la macchina di guardia, la macchina di piglia, resti là. Ma vai a te, cadu. Cazzo. Non basta di ridargli. E da là fammi le piglia. Io sono pazienza, allora. Cazzo. Allora. Vabbè, l'importante che vi sia questo, non male quando lo vedi so, quando vi so va bene, riesce a essere tranquillo, ma quando lo vedi come ti fatti lì? Infatti, quando lo vedi sono romano, che non riesce a pagarli. Dammi 3 minuti, vengo subito. Io sono qua. Eccoci qua. Infatti. E così, purtroppo, ce la prendiamo così, ce la prendiamo. È obbligato di me a pigliare la luce. E di persone c'è cosa fa. Non è possibile pigliare di persone c'è tutto. Va bene così e basta. Infatti così. Allora, domani le bagureva, adesso è gapputo. E tutto il resto c'è una bagare a banca. Pagato, non ci pensa più. Allora si deve pagare le migliore così. Era come se fate attesa. Aveva la fa come se era manca, boh, non lo so. Ho visto la casa stessa col telefono, fa tutto, capito? Passiamo un po' l'ho pagata col telefono, però siccome devo recuperarmi la ricevuta, allora chissà, deve la pago a 30 centesimi in più. Avanti il cavolo di campagna. Ah, capo c'era quattro benzina, non arriva mai. Stavo le case e tipo sì. Anche a Valdura abbiamo telefonato. Però male è arrivato. Adesso voglio vedere l'altra bolletta, la seconda. E arrivare già arrivano, in ritardo ma già arrivano. Vediamo un po'. Cazzo, da tre mesi che non arrivi, è un po' più strano. E anche la tassa della strada, anche il consorzio, cazzo, ancora arrivi, cazzo, boh, ancora arrivi, cazzo, boh, cazzo, solo c'è arrivi da 3-4 anni, no, che non arrivi, è arrivato da 80 la borsa. Ha pagato la borsa. Ma esce da brusa solata pure. Prima era sempre, anni fa era sempre regolare, cazzo. Ora questo si è cambiato male, o qualcuno che si sente male. A me mi pare di non c'è più che si fa via. A me ne sarà qualcuno che se ne è dimenticato di farli. Per carità, cazzo. Un macello. Cazzo, se prima andava, era sempre regolare, già due mesi arrivia. Ma poi c'è quasi 5-6 mesi che non arrivia nulla. E noi sempre telefoniamo. Dai arriviamo, già arriva. Dai un bello male, la poi darci il telefono e dare mandata. Magari arrivi da pure aumentata. Mi sembra che era pago poco, magari il tanto sarà magari 60-70 euro, capito? Però per 3-4 mesi fatti conto quanto mi paga. Sì, infatti è così. Che non arrivi a più del solito. E te la paghi tutta una volta di Ramoni. Cazzo, dove che la paga a ratti, non so. A che ti manda le bollette che la vuoi pagare poco a poco, oppure unica direttamente, la pago sempre l'unica direttamente, dopo un mese oggi, un mese domani l'ha pagato, la pago per altro e basta, la faccio sempre l'uscito. Ah, andava bene, così cavata, non mi piace più. Aspetta, non andando a una becca, andiamo male, no? Andiamo male, sto. Sì, vabbè. Tanto sempre da pagare, avremmo. Hanno solato, devo andare a aprire. Sì, andate così, non ti preoccupare, va benissimo. Ho detto, hanno solato, devo andare a aprire. Sì, ahia. E così è tutto. E infatti. Allora poi giamba. Ah? Allora poi giamba. E allora, per carità. Intanto ci regola. Ma piano piano, andate sempre, ma sento più a Manuele, cazzo, è sparito qui. Voi ti sai, sempre travagliando, grugato. È sempre la volta e fura. Non lo so dove sia andato. Allora, poi c'è un condizionatore, adesso aspetta, a chi sta, carriola, cazzo, che viene su un fresco. Infatti è così, chissà, non se ne è andato ora a travagliare, come ha attaccato sempre alcuni giocatori. Non credo, questo infatti è pure, c'è per meglio, è chiaro che è vada per tutta, c'è la griglia, sempre che sia meglio, ma ne pare che ora è peggio ancora, per carità, cazzaivi, se ti date di più, se pagate l'affitto, cazzaivi, paruti, tutto, E cosa tu vuoi occupare fino a pochi rocchi e sei più tranquillo. Ah, infatti. Vuol dire che prendi le stravolgerarie e prendi manzano e nucchi. Qua c'è chisso, ragazzi. Già la che vai con l'intento, cazzo, prima quasi già ogni pochi giri entrava, ma ho il pigliato, perché non entra il maghis. Fate così. Ma, fuggi così, gli assemilocchi, si può entrare gli assemilocchi, la porta è aperta. Se vuoi entrare gli assemilocchi, sì. Io ho aperto tutte due porte, lei, così che è tutto aperto, così che basta frusciare, o si chirria, già sta facendo. Infatti è così, so che vai bene, so cosa, un incidente di la giostra, so che vai bene. E che incidente? Dice che è successo a rimane a sera. Un ragazzo di 17 anni, che esce da la decida, non so, quindi... Non ho visto niente. Ma, no, a Sassari? No, fuori, continente. No. E io lo devo pagare più tardi, già lo vedo alle 8. Di solito guardiamo il telegiornale alle 8, su quale canale c'è? Io sono su Rai 3, però già lo fanno vedere anche al canale 5, Italia 1, già lo fanno vedere nei telegiornali. Ma infatti già lo guardo, alle 8 già lo guardo, per cui io si sente proprio di preacce, cazzo, boh, che ammazza chiso, che ammazza il dato. Incidente a macchia addrezza, cazzo, incidente stesso, cazzo l'hai visto, cazzo ha venuto poco, cazzo le macchine, una cazzacciata una con l'altra. Anche se dei pompieri che ha girato il vento e l'ha portato fuoco, che sono morti. Certo, vai se cazzo, cazzo, non mancano mai questi cose, no, per carità. O morirà, può morire di droga, insomma. Infatti, è così, Stiamo bene, andiamo. Purtroppo così, prima non c'erano queste cose e non le sentivamo. Magari anche prima succedevano queste cose. Per adesso tutto quello che succede, vediamo, da una parte e dall'altra, li vediamo tutti i canali. Infatti prima non li sentivi, però li intendi. E per forza, che qualsiasi canale che tu apri, così che c'è il calzone te lo fanno vedere. Pensi che prima non vedevi nulla, boh. Adesso invece fanno vedere tutto, anche le cartacce, per cui va bene anche così, vai. Sì. Fate così, purtroppo, se aspettiamo così. E io se ne posso cambiare, insomma, e chi dà ragione? Chiedere, cavando si gente, che si possa cavare si gente cagini. Poi Lucino, come te, se c'è un bel vento, ti vediamo la sabbassi. Se no ti vediamo la base destra o la base sinistra. Vedi, la bacia sì, c'è la bacia in rissa. Quindi una bacia ti deve pigliare, o te la tieni così. Andiamo bene, andiamo. Per carità, a che punto siamo arrivati? Purtroppo, se ti vedi la sinistra, andi a sinistra. Se non ti vedi la destra, andi a madrissa. Per forza, sì. Diversamente cosa fai? Non puoi farlo diversamente. Devi andare così e basta. Infatti. Purtroppo sì. Ce l'aspettiamo così. Purtroppo. Oioioia. Cosa puoi fare? Pazienza, mi molto, pazienza. E tira avanti alla bella miglia. Potete dire altri canti, e cosa vuoi fare? Oh, per carità, dai, tanto che si fa ricchi, sono ricchi, fare di là, però c'è anche il guru che si dice sono ricchi, cazzo, e da voi sono malati, non si ricordano nel manco. Mi vado a andare così come ti sei mandando, piano piano e sempre andando. Ehi, allo griglia, e lo mette pure. Ok, to, dai, io chiudo to. La signorina mette a vendere, che prende gente, c'è pure. Io non lo si manca le mai, la compagnia non si manca mai, sto per cui devo chiudere per forza. Dai, ci sentiamo domani, se Dio vuole to. Ok, to, grazie, la chiacchierata, tanto di casa, to. E a Gianmaria, a risentirci alle prossime. Ok, ciao Gianmaria.